La prima volta che io sentii parlare di autogestione delle fabbriche da parte degli operai come obiettivo politico fu quando ero ragazzino, sul finire degli anni 50, in un volantino di un gruppo di estrema destra, tanto a destra da non essere preso in considerazione dal movimento sociale di allora. Ciò avrebbe potuto farmi capire ben più presto di quanto di fatto poi non l'abbia capito che l'assegnazione di un pensiero a qualcuno, sia esso una persona, un'associazione, un partito, un movimento, questa assegnazione non è una cosa semplicissima. Una persona pensa e dice tante cose nel corso della sua esistenza e sarebbe ben strano che tutte queste cose fossero coerenti fra loro o lo sembrassero agli altri al punto di poterle classificare in un solo modo. Può capitare, non dico di no, ma è raro. O meglio, quando capita può dipendere dal fatto che qualcuno abbia un forte interesse per farlo e la forza necessaria per imporlo agli altri. Dunque non mi stupisco se allorché qualcuno ha smesso di parlare, non può più rispondere, e qualcun altro facendone un sol boccone, ovvero un tutto unico, lo assegna ad un pensiero o ad un'etichetta. Sempre di moda, per esempio, è il giochino della distribuzione del pensiero altrui fra destra e sinistra, no? Dante Alighieri era di destra o di sinistra? Manzoni? La relatività einsteiniana? La Vispa Teresa era di destra o di sinistra? Ma... L'individuazione dei criteri per le rispettive attribuzioni non è semplice e spesso anche le più serie intenzioni si scontrano, tra l'altro, con una sorta di omertà istituzionale che mistifica i dati su cui ragionare. Per esempio, che il poeta Giuseppe Ungaretti fosse stato un fascistone a 48 carati, qualcuno lo sapeva. Ma per un mucchio di ragioni sulle quali sarebbe bello poter indagare, si è ben guardato dal dirlo, almeno per un po', no? Poi, improvvisamente, è arrivato il segnale di via libera. Nei giorni scorsi leggo, per fare un altro esempio, l'autobiografia di un tale che, preso da grande amor proprio, ha riscritto questa sua autobiografia per la quinta volta, e scopro che in quest'ultima si dice di una sua iscrizione al GUF, o gruppo universitario fascista, che, guarda caso, nelle quattro precedenti si taceva. Cos'è successo? Gli è tornata la memoria? Un effetto di un morbo di Alzheimer alla rovescia? No, ovviamente, il clima ideologico è mutato e ciò che un tempo era disvalore per qualcuno è diventato valore. La vergogna si ritrova virtù. Nei giorni scorsi, sulle pagine dei giornali, c'è stato un gran trafficare intorno al nome di Panfilo Gentile, che fu editorialista del Corriere della Sera e docente di filosofia del diritto presso l'Università di Napoli. La destra, a quanto pare, la destra lo vorrebbe fra i suoi numi tutelari, ma quell'oceano sterminato che, inghiottendo senza sottilizzare ogni terraferma, è diventata la sinistra, non glielo consente. Non si giunge al punto di dire che Panfilo Gentile fosse un operaista barricadero e trinariciuto, questo no, ma se ne vanta l'ispirazione liberale pura come l'acqua di fonte, e si tende a mettere in subordine il fatto che fosse un reazionario come pochi. Dopo qualche giorno Giovanni Russo, sdegnato contro chi non aveva saputo difendere il possesso di Gentile con il nervo giusto, è intervenuto mettendone in luce il chiaro antifascismo e una poco nota nascita socialista, con il che le pretese acquisitive della destra sembrerebbero rintuzzate. Sulla scia di Russo potrei perfino aggiungere qualcosa. Panfilo Gentile, a onor del vero, collaborò a Utopia, la rivista del socialismo rivoluzionario italiano, che il marxista Benito Mussolini fondò e diresse dal novembre del 1913 al dicembre del 14. Una rivista su cui scrisse gente come Jules Guesde o Amedeo Bordiga, ecco. Un intervento di Panfilo Gentile su Stato e sindacato lo si può trovare nel numero doppio 9-10 del secondo anno di pubblicazioni. Con ciò, tuttavia, le cose rimangono esattamente come prima. Chi è Panfilo Gentile? È il marxista che va d'accordo con Mussolini, l'antifascista liberale, il castigatore dei cattivi costumi della Democrazia Cristiana degli anni 50 o il liberale conservatore e reazionario degli anni 60? Se c'è qualcuno disposto a prenderselo in blocco a prezzi di saldi, alzi la mano. Se no lo si vende a lotti. E allora è subito chiaro che uno di questi lotti può andar bene come alla destra. Ne conseguirebbe che almeno uno dei lotti rimasti potrebbe andar bene alla sinistra. Ma, ahimè, ecco, qui accade qualcosa di strano. Invece di prendersi il Panfilo gentile marxista e mussoliniano e lasciare il resto, la sinistra a prendere il marxista e mussoliniano non ci pensa neppure, mentre si contende il liberal conservatore. Sono i misteri del libero mercato. Nel genio incompreso, Federico Di Trocchio racconta, fra gli altri, il caso del fisico inglese Charles Glover Barclay, cui fu assegnato il premio Nobel del 17 per aver scoperto alcune radiazioni caratteristiche emesse dai raggi X allorché vengono indirizzati su atomi pesanti. Due fatti renderebbero curioso il suo caso. Il primo è che questi risultati sperimentali sono stati presto giudicati sbagliati o più precisamente interpretati erroneamente, prima ancora che lui ricevesse il premio Nobel. E il secondo è che le condizioni del suo equilibrio psichico erano già da tempo alterate. Straparlava, per esempio, di un fenomeno J che nessuno era mai riuscito a scorgere e che dopo di lui venne frettolosamente cancellato dalla storia della fisica. Ci doveva essere anche stato ovviamente un momento in cui Barclay era stato un brillante fisico, ma quando la comunità internazionale si ricordò di lui era troppo tardi, ormai era andato di testa. E tuttavia, per la forza delle raccomandazioni e per i ghiribizzi della storia fu premiato lo stesso nell'imbarazzo generale. Per come sono andate le cose, qui fra i due segmenti di vita e di pensiero non c'è eccessiva concorrenza. L'intero non interessa a nessuno, una parte la si tiene, l'altra la si butta. Fatto più unico che raro, si butta quella coperta di onore e di gloria. A conferma di quanto sia difficile etichettare la gente una volta per tutte, può essere giusto portato il primo numero di Utopia, dove Mussolini pubblica una lettera di Marx a Engels del 4 novembre 1864. Piacerà agli anarchici sapere che in essa Marx parla piuttosto bene di Bakunin. La cosa, come noto, durerà pochissimo ed il mutato atteggiamento verrà fedelmente reiterato dalla sua numerosa discendenza morale, con la differenza che i comunisti combatteranno gli anarchici senza concedere loro neppure un breve periodo di simpatia. (Sussurra)